sicuramente i fondi pubblici sono stati, questo sì, come lo hanno accertato diverse sentenze, utilizzati per la vita del partito. Poi è un partito che in questi 10 anni ha amministrato quasi 100 milioni di euro di fondi pubblici. Io posso rispondere per i bilanci che ho approvato, ma non sono io che l'ho amministrato. Io ho pensato a fare politica, però se mi chiede qual è il mio giudizio, lei metterebbe la mano sul fuoco. Sono convinto e sono convinto ancora oggi che Antonio Di Pietro sia una persona moralmente irreprensibile, che abbia ben governato il partito. La mano sul fuoco cosa vuol dire? Io credo che ognuno possa... Cosa vuol dire? Ha fatto in prima persona. No, questo sì, però lei è stato in un partito che adesso è sotto accusa, è un partito che anche nel nome Italia dei Valori ha portato avanti e porta avanti delle istanze diverse che rivendica questa diversità rispetto a alcune cose. Immagino che se lei c'è stato dentro per tanti anni, insomma, avesse totale fiducia del fatto che i fondi pubblici venissero gestiti in modo totalmente trasparente. Ma nel momento in cui fino al 2009 eravamo tutti consapevoli che ci fosse una gestione praticamente unipersonale della politica e della cassa, questo l'abbiamo consentito per la piena fiducia che avevamo nella persona, ed è una fiducia che per quanto mi riguarda ancora oggi non si è inclinata.